In collegamento con la piazza, ciao. Ciao. Allora, raccontaci un po', ci siamo sentiti poco fa in diretta che c'erano delle cariche, ma non sappiamo di più, quindi raccontaci un po' la situazione. Ma il corteo da Piazza Montecitorio si è spostato ed è arrivato fin dentro al Senato. Poi, dove lì ci sono stati un po' di, diciamo, di incontri con la polizia, ma in ogni caso il corteo è riuscito a proseguire e a sicuramente a segnare un punto che in questa giornata sicuramente non siamo rimasti a Montecitorio come magari si aspettavano. E in questo momento siamo a Piazza Venezia e stiamo continuando a provare a proseguire in corteo verso Palazzo Grazioli. Perfetto, quindi vi state spostando da Montecitorio a Palazzo Grazioli, siete a Piazza Venezia, quindi chiunque vi volesse raggiungere vi trova a Piazza Venezia, già in piazza siete? Sì, siamo già qui. Va benissimo, allora ci si risentirà ovviamente nell'arco del primo pomeriggio. Comunque è una giornata molto importante, quindi nonostante il poco preavviso, la mobilitazione, la risposta, la partecipazione è stata elevatissima. E indubbiamente gli studenti e le studentesse hanno segnato un segnale in questa giornata. Senti, solo una domanda, ma si sono uniti i due cortei, cioè sia quello degli studenti universitari e quello degli studenti medi? Siete tutti insieme? Sono parti, sì. Ok, va bene, allora ci risentiremo nell'arco del primo pomeriggio, così ci aggiornate su dove siete. D'accordo. Ciao, buona manifestazione. Ciao, grazie.